In questo momento ci sono diverse offerte di software di parental control, però non c'è nessun ambiente che può essere considerato un vero e proprio sistema operativo per i bambini. Quindi, oltre alle funzionalità di sicurezza e parental control, anche un vero e proprio ambiente per il divertimento e anche permettere di imparare ai bambini. Tu hai utilizzato un termine che ogni tanto sentiamo, il parental control, il controllo da parte dei genitori. Che cosa intendete? E poi cerchiamo anche di capire come i genitori possono controllare quello che avviene su un computer dove è installato Magic Desktop. Sì, per fortuna il concetto appunto di controllo da parte dei genitori, specie nella navigazione internet, ma non solo, è un concetto che si sta diffondendo molto in questo periodo. Nel nostro caso, siccome ci rivolgiamo a bambini tra i 3 e i 10 anni, le problematiche sono molto più importanti e quindi con il nostro software diamo la possibilità, ad esempio, ai bambini di navigare su internet o di scambiare email, però con regole molto restrittive, ovvero è il genitore che decide su quali siti il bambino può andare e con chi può scambiare le email. Per dei ragazzi più grandi, queste regole sarebbero forse troppo restrittive e allora si passa a degli altri software che magari filtrano i contenuti. Oppure semplicemente escludono alcuni siti, però lasciano una navigazione più libera. Senti, noi siamo abituati normalmente ad un computer dove c'è un sistema operativo, poi ci sono i vari programmi. Noi apriamo i vari programmi, utilizziamo i vari programmi per navigare su internet, scrivere, fare fotoritocco, eccetera, eccetera. In questo caso, cosa succede? Cioè, Magic Desktop è un ambiente unico dove ci sono vari programmi? È un ambiente che si deve aprire dal sistema operativo? Come funziona? Allora, Magic Desktop è un ambiente che si sovrappone completamente a Windows, quindi per il bambino è l'unica interfaccia che può utilizzare e all'interno di questo ambiente ha una serie di programmi, un Word semplificato che si chiama EasyWrite, un Paint semplificato, un programma per imparare la musica. Può utilizzare tutti questi contenuti. Ha dei limiti quando si tratta o appunto, come dicevo prima, della navigazione su internet o dell'utilizzo dell'email che comportano dei rischi se fossero lasciati totalmente Certo, liberi. perché si va verso l'esterno. Esatto. E verso contenuti su cui non si può avere il minimo controllo. E inoltre i genitori possono anche decidere di aprire altre funzionalità di Windows ai bambini. Io, genitore, posso decidere che mio figlio può usare Excel, per dire. A quel punto inserisco la password che mi identifica come genitore e importo Excel all'interno di Magic Sì, Desktop. quindi abilito anche quel programma. Esatto.